Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità, le notizie attraverso una lente speciale. Cerchiamo di rappresentare anche criticamente il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 843, parleremo di Vaticano e xenotrapianti, parleremo dei fucili da caccia che uccidono ancora a stagione finita, parleremo di Arborio, dove un movimento dice no a un nuovo allevamento, parleremo di elezioni danesi, non mancherà una ricetta vegana a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni e tanta buona musica grazie al montaggio di Anna Granata. Speriamo di avervi incuriosito. Apriamo la puntata con una notizia forse sorprendente o forse no. Sappiamo che le fedi monoteiste non sono mai state tenere verso il mondo animale. Ci può essere stata qualche breccia rappresentata magari da personaggi un po' eretici come San Francesco o documenti che aprivano a una visione più ecologista come l'enciclica Laudate Si. E prendiamo atto del fatto che esiste un movimento vegetariano effettivamente trasversale alle tre religioni monoteiste. Resta il fatto che l'antropocentrismo è alla base. L'uomo è fatto a somiglianza di Dio, mentre non lo è il resto del vivente. Dunque, patriarcato, gerarchia e tanti candidi agnelli che devono morire subendo un interposto martirio in nome di peccati non compiuti da loro. Anche sul tema della sperimentazione scientifica, la Chiesa non si sta dimostrando molto empatica verso gli animali non umani. Nelle ultime puntate, invece, abbiamo riportato molti segnali che provengono anche dal mondo scientifico e della ricerca, che vanno nella direzione opposta, ovvero quella di un progressivo abbandono del modello animale a favore di modelli umani, siano essi reali o virtuali, più affidabili e compassionevoli. Invece è notizia recente che la Pontificia Accademia per la Vita, coadiuvata da un gruppo internazionale di esperti, abbia riconfermato per il 2026 il sì che aveva già espresso nel 2001 alla possibilità del trapianto di organi da animali a esseri umani, tecnicamente xenotrapianti. L'ultimo documento, che contiene anche diverse cautele cliniche e che aggiorna il testo del 2001, è stato presentato il 24 marzo scorso nella sala stampa vaticana con il titolo «La prospettiva degli xenotrapianti, aspetti scientifici e considerazioni etiche». L'obiettivo della Chiesa è rispondere alla richiesta di organi da trapiantare, la cui mancanza condannerebbe a morte tante persone in tutto il mondo. 10 ogni giorno negli Stati Uniti, 8 ogni giorno nell'ambito dell'Unione Europea, questo secondo i dati che sono stati diffusi durante la conferenza stampa. Ogni anno vengono eseguiti 170.000 trapianti nel mondo, ma i beneficiati non sono nemmeno il 10% di tutti coloro che ne avrebbero bisogno, perché ci sono pochissimi organi a disposizione e quindi si cercano delle alternative. Il sacrificio degli animali, dice questo documento, può essere giustificato se è necessario per ottenere un beneficio importante per la persona umana, come avviene per lo xenotrapianto negli esseri umani, anche quando questo comporta esperimenti sugli animali o modifiche genetiche, sempre su animali. In conclusione, il punto di vista teologico e morale non vede alcun problema sostanziale nell'utilizzo di diverse specie animali, ad esempio i primati non umani. Il nostro punto di vista, invece, su questo è presto detto. L'antispecismo pone la questione se il diritto alla salute umana possa prevalere sul diritto alla vita degli animali e nega questa gerarchia. Mentre quindi la medicina cerca di risolvere la carenza di organi, l'antispecismo contesta profondamente il modo in cui si cerca questa soluzione, vedendo nel xenotrapianto una forma estrema di sfruttamento animale. L'antispecismo, insomma, rifiuta la concezione degli animali come pezzi di ricambio o risorse a disposizione dell'uomo, condannando la creazione di animali transgenici e il loro successivo sacrificio come una violazione dei diritti animali, e ritiene altamente discutibile l'idea che la sofferenza e la morte di tante creature siano legittimate dal miraggio della conservazione eterna dell'essere umano. La seconda notizia, andiamo a Trento, dove il tribunale ha assolto in primo grado il presidente della provincia autonoma, Maurizio Fugatti, che era sotto processo per il reato di uccisione di animale con crudeltà e senza necessità. Ci riferiamo al caso della modalità dell'uccisione dell'orso M90, che era stato definito problematico perché aveva iniziato ad avvicinarsi alle persone con troppa confidenza. Il 28 gennaio 2024 aveva inseguito due abitanti nel comune di Mezzana. Fugatti firmò l'ordinanza per l'abbattimento dell'orso e M90 fu ucciso poche ore dopo da una squadra di guardie forestali il 6 febbraio 2024 in Bassa Val di Sole, nella provincia di Trento. Nel decreto non era prevista la telenarcosi e M90 è stato abbattuto con due proiettili nei polmoni e nel fegato, nessuno dei quali è stato immediatamente letale, quindi l'orso M90 è morto lentamente per emorragia interna con grande sofferenza. L'operazione preventiva di narcotizzazione avrebbe potuto essere effettuata in totale sicurezza, evitando la lenta agonia. Ma la telenarcosi non era stata espressamente prevista nel decreto del presidente della provincia Fugatti, eppure poteva, anzi doveva essere presente anche un veterinario. Alla fine la giudice ha assolto Fugatti perché il fatto non costituisce reato. Ma il fatto che non costituisca reato non nega l'evidenza, il fatto sussiste, la morte è stata inflitta tra atroci patimenti, nonostante questo il presidente Fugatti non è punibile e quando saranno pubblicate le motivazioni capiremo il perché. M90, due parole su di lui per ricordarlo, era un orso giovane di 2 anni e mezzo che l'assenza dei cassonetti anti-orso aveva abituato a cercare cibo vicino a centri abitati. Nell'ottobre del 2023 era stato investito da un'auto, ma era rimasto illeso. Nel gennaio del 2024 aveva seguito per un breve tratto 2 escursionisti. E questo è bastato per condannarlo a morte con un decreto eseguito poche ore dopo la pubblicazione senza lasciare il tempo alle associazioni di ricorrere. Gli animali vengono tutt'oggi trattati come oggetti, cose di cui si può disporre a piacimento, nonostante le istituzioni abbiano alternative a disposizione e risorse economiche, si decide deliberatamente di farli soffrire per negligenza o indifferenza. Noi che ci battiamo da sempre perché quelle che Anna Maria Ortese, la grande scrittrice, chiamava le piccole persone, i nostri fratelli non umani, siano rispettati in quanto esseri senzienti, noi continueremo a batterci contro l'arbitrio e l'arroganza di chi tratta gli orsi come ingombranti ostacoli da rimuovere non appena se ne sente il bisogno. Partire, correre, correre dietro l'avventura. Dile che ti din dan di lì, dile che ti din dan di lì, presto, presto, presto. Dile che ti din dan di lì, dile che ti din dan di lì, presto, presto, presto. Annita dai mille cuori, un giorno finirà questo tormento quando avrò liberato. Cercherò un castello su nelle valli di Mentone, e poi per tutta la vita pace e carezze di passione. Pepi, pepi, Anita, Anita. Pepi, pepi, Anita, Anita. Pepi, pepi, Anita, Anita. Non si può far finta di ignorare tutto questo, non siamo struzzi, né possiamo pensare che se noi non guardiamo, quello che ci rifiutiamo di vedere non c'è, soprattutto quando la cosa che non vogliamo vedere è ciò che stiamo mangiando. Il grande scrittore e pensatore Lev Tolstoi, ex cacciatore, nel libro Contro la caccia e il mangiar carne, ci ha portato con sé in una sua battuta di caccia e possiamo davvero sentire le sue sensazioni quando la sera ripensa a quanto accaduto. Prima il piacere, poi il cuore che accelera i suoi battiti, la realizzazione del gesto compiuto, il tormento, il senso di colpa. Stiamo parlando di uno scrittore russo dell'Ottocento, ma è evidente come il genio possa dare strumenti di autocritica anche a chi vive immerso in una società estremamente arretrata. Quindi l'uomo, quando è capace di riflessione, non è solo il figlio del proprio tempo, ma sa diventare anche promotore di un movimento evolutivo, politico, teologico, etico, fatto di analisi e di continua messa in discussione delle proprie certezze nel tentativo di tendere il pensiero verso la verità. Quanto vogliamo ancora tollerare lo stato di cose presente? Quanto pensiamo di poter ancora aspettare prima di tornare ad ascoltare il misterioso e potente respiro del mondo? Chiede questo Tolstoi. Ebbene, cosa penserebbe questo immenso scrittore se sapesse che nel 2026 in Italia, a stagione venatoria conclusa, i fucili da caccia uccidono ancora? Questa volta non si tratta di un cacciatore, ma di un civile che si chiamava Vladislav Sergeevich Grigorev. Aveva 43 anni, anche lui era nato in Russia e lavorava come stalliere nelle campagne di Monte Granaro, vicino a Fermo, nelle Marche. È stato ucciso sabato 14 marzo da un cacciatore impegnato in una battuta di caccia alla volpe con una fucilata letale che lo ha raggiunto al collo. Era una persona straordinaria. Il suo unico sogno era dare un futuro migliore alla sua famiglia. È rimasto vittima di un omicidio e noi adesso vogliamo giustizia. Afferma questo Stefania Quattrini, la proprietaria dell'azienda agricola Le Dame di Montegranaro, dove collaborava come factotum il 43enne ucciso. Vlad, come veniva chiamato da chi lo conosceva. E vediamo cos'è successo. In quella zona, sabato mattina, era in corso un'attività di contenimento della volpe, autorizzata dalla provincia. In zona c'erano 6 cacciatori. Abbiamo sentito un gran trambusto, ricorda Quattrini, non abbiamo capito cosa stesse succedendo perché la caccia è chiusa. Vlad è andato a vedere. Poco dopo mi ha chiamato dicendomi che erano scappati 2 cavalli e che la recinzione del maneggio era stata divelta. Per noi 2 cavalli scappati sono una vera emergenza, anche per una questione di sicurezza, così lui si è messo a cercarli. E poco dopo mi ha inviato un messaggio dicendo che c'erano i cacciatori. Cosa sia successo in quei minuti è materia su cui stanno lavorando gli inquirenti. A sparare sarebbe stato un 82enne, operatore faunistico e guardia venatoria, impegnato in una battuta di caccia alla volpe. L'uomo è ora indagato per omicidio volontario. Pare che tutto sia iniziato perché Vlad si era lamentato con i cacciatori, dato che i colpi di fucile terrorizzavano i cavalli, tanto che 2 erano fuggiti e lui era uscito a cercarli. Proprio durante questa ricerca si sarebbe imbattuto nell'anziano cacciatore e sarebbe nata una discussione sfociata poi nello sparo fatale. Ci scusiamo con Lev Tolstoj, non siamo stati eredi degni del suo prezioso pensiero. Caramba, ese loco, cierre esa puerta. Cierre esa puerta, caramba, ese loco, cierre esa puerta. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale. Polemica sulla costruzione di un nuovo allevamento intensivo di galline ad Arborio, in provincia di Vercelli. Il comitato Riso, Food for Profit, Greenpeace Vercelli e Valsesia, oltre alle associazioni Parte in Causa e Cani Sciolti, ha annunciato un nuovo presidio nel centro di Arborio per chiedere di fermare questo progetto, che secondo i manifestanti sfrutterà gli animali e porterà inevitabili impatti ambientali, sociali e sanitari sul territorio. La vicenda è tornata al centro dell'attenzione dopo che il collettivo di Food for Profit ha diffuso nuove immagini relative a 2 allevamenti intensivi del gruppo abruzzese Uova, lo stesso che costruisce l'impianto di Arborio, situati nelle province di Novara e Varese. Entrambi gli allevamenti documentati sono stati colpiti dall'influenza aviaria a fine 2025. Il progetto dell'allevamento intensivo di Arborio, riferiscono le associazioni, è l'ennesimo tassello di un sistema malato che ha gravi conseguenze sull'ambiente e sulla salute cittadina. Per questo Greenpeace, insieme ad altre associazioni, ha presentato la proposta di legge nazionale oltre gli allevamenti intensivi e ha inviato l'omonima mozione al comune di Arborio chiedendo alle istituzioni locali di sostenerla. Noi sosteniamo a nostra volta il comitato e ci auguriamo che gli allevamenti intensivi vengano definitivamente superati. Grande nuvem escura vai se embora. 30 animali, tra pecore e agnelli, sono morti nell'incendio che ha distrutto una stalla nelle campagne di Ripi, a ridosso della periferia di Frosinone. Le fiamme, riporta l'ANSA, si sono sviluppate in una struttura su via Spulla, proprietà di un pastore 35enne del posto. Nonostante il soccorso dei vigili del fuoco sia scattato in pochi minuti, 80 ovini sono morti, intrappolati. Noi ci teniamo a dire che non riteniamo che questi episodi siano una disgrazia imprevista, ma che si tratti di effetti previsti e calcolati di un sistema di dominio violento che mantiene il suo margine di profitto nonostante sappia benissimo che recinti e gabbie, fatti per intrappolare le vite, diventano strumenti di morte in caso di alluvioni, esondazioni, incendi e altre calamità più o meno innaturali. Economia, welfare, pressione fiscale e clima sono stati questi i temi che hanno polarizzato l'intera campagna elettorale in Danimarca dopo l'annuncio della premier socialdemocratica Mette Frederiksen di indire il voto anticipato. E al centro del dibattito ci sono stati per oltre un mese anche i maiali. Il destino dei 28 milioni di suini che vengono annualmente allevati in Danimarca è diventato infatti il baricentro inaspettato della campagna elettorale, con il paese spaccato tra ambizioni green e sopravvivenza rurale. Al centro del dibattito c'è stato il Green Tripartite, un esempio notevole di approccio partecipativo e collaborativo. Si tratta di un tripartito, governo, imprese e società civile, per affrontare il tema molto scottante della transizione ecologica in agricoltura. Si tratta quindi di un patto tra il governo danese, le organizzazioni agricole, l'industria, i sindacati e le associazioni ambientaliste, il cui principale obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra, migliorare l'ambiente acquatico, aumentare la biodiversità e migliorare la gestione dell'uso del suolo, inclusa la riforestazione. Il tavolo di lavoro ha coinvolto la Danish Farmers Association, quindi gli agricoltori, The Nature Conservation Society, quindi gli ambientalisti, la Danish Industry, quindi l'industria, the Union of Food Workers, quindi i sindacati, i comuni danesi e anche 5 ministri. Il modello teorico utilizzato si basa sulle raccomandazioni della Svarer Commission, un organismo composto principalmente da economisti che ha lavorato su modelli pratici di tassazione del carbonio e misurazioni ambientali. L'accordo storico prevede la prima carbon tax al mondo sulle emissioni del bestiame, con un costo per gli allevatori che potrebbe superare 40 euro per ogni tonnellata di CO2 nel 2030, salendo a 100 euro nel 2035. Frederiksen, in cerca del terzo mandato, ha difeso l'accordo, pur proponendo nuove restrizioni per proteggere l'acqua potabile dai pesticidi agricoli. In uno stacco del duello tra la premier e i suoi oppositori, le telecamere hanno immortalato i sostenitori dei due partiti fuori dagli studi, mostrando una persona travestita da maiale gigante che balla tra la folla. È un ingegnere di 70 anni che racconta all'ANSA: «Sono qua per portare all'attenzione la condizione degli animali in Danimarca, soprattutto i maiali, che fanno una vita miserabile. Oltre alla questione etica, è l'inquinamento del suolo e delle fonti idriche che preoccupano molti danesi. Siamo stanchi del fatto che i nostri bambini non possano fare il bagno o pescare, e questo perché dobbiamo allevare milioni di maiali. Una follia. Il voto danese non è stato quindi solo un test sulla tenuta dei socialdemocratici, ma sul futuro del modello agricolo europeo». Tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci propone oggi una ricetta a base di riso dedicata al movimento mobilitato ad Arborio contro l'allevamento intensivo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Questo Questa volta, per esprimere solidarietà al movimento che ad Arborio si è opposto all'apertura dell'ennesimo allevamento intensivo, non abbiamo dovuto sforzarci più di tanto. L'ingrediente principale è già nel nome della località. Gli ingredienti per 4 persone per il riso al salto sono 320 g di riso arborio, appunto, una cipolla bionda, 30 g di olio extravergine di oliva, un bicchiere di vino bianco, dello zafferano, 40 g di grattugiato vegetale, 1,5 litri di brodo vegetale, sale e pepe. Iniziate preparando il risotto allo zafferano. Sbucciate e tritate la cipolla e fatela rosolare con l'olio extravergine. Unite il riso e lasciatelo tostare qualche minuto, quindi sfumate col vino bianco. Nel frattempo ammorbidite lo zafferano in una tazzina di brodo vegetale e quando il vino sarà sfumato unitelo al risotto. Portate il risotto a cottura con altro brodo vegetale. Togliete dal fuoco e mantecate con un altro cucchiaio di olio extravergine e il grattugiato vegetale, aggiustando di sale e pepe. Versate il risotto su un vassoio, sgranandolo bene con una forchetta e lasciate raffreddare completamente, ancora meglio se lo fate riposare una notte in frigo. Pennellate di olio una padella, distribuitevi il riso schiacciandolo con un cucchiaio e fatelo dorare a fuoco vivo per 4-5 minuti. Quando si formerà una crosticina dorata su entrambi i lati, mettete su un vassoio e servite. Questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce piuttosto malmessa che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata 844 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.